Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Mirko Realdini, il conduttore del nuovo programma Il Salotto della Musica, che inizierà questo sabato 12 marzo. Ciao Mirko, buon pomeriggio. Ciao Adele, ciao. Come dicevo, questo sabato 12 marzo inizierà il programma Il Salotto della Musica, la vetrina canora con la collaborazione di Sonos Music Records della Maffucci Music. Volevo iniziare questa intervista innanzitutto chiedendoti di spiegarci meglio di che cosa si tratta questo nuovo programma. Certo, guarda, allora praticamente funziona così, è un programma, diciamo una vetrina musicale dove diamo la possibilità a diversi artisti di potersi mostrare al pubblico con le proprie canzoni e ovviamente in ogni puntata ne avremo tre cantanti. Farò una breve intervista perché poi il programma dura 25 minuti ogni sabato, quindi è una cosa fresca, veloce, diciamo un passaggio così veloce proprio per dare modo e spazio soprattutto più che altro alla musica, perché l'intervista dura 3 minuti, dopodiché vogliamo ascoltare il pezzo dell'artista appunto che si è venuto a far conoscere sul nostro programma appunto Radio Italia anni 60 TV, che volevo ricordare fra l'altro che questo sabato il 12 come prima puntata sul canale 81 lo vedranno Bologna e l'Emilia, mentre l'86 lo vedrà la Romagna. Poi dal prossimo sabato fino al 14 maggio solo sull'81 tutta l'Emilia Romagna, è proprio solo questo sabato perché sai che c'è la risintonizzazione dei canali che si farà proprio in questo periodo qui, quindi c'è questo salto di insomma per mettere a posto un po' il tutto, ecco. Tu parlavi di artisti che si esibiranno, chiaramente anche presentando le loro proposte musicali, ti chiedo se quindi si tratta di una sorta di contest musicale e quindi questa vetrina si trasformerà anche in una sorta di sfida. Allora, in realtà non è una vera e propria gara contest, ma è proprio una vetrina musicale dove diciamo ogni puntata ci saranno questi tre artisti che faranno conoscere le proprie canzoni, poi nella decima e ultima puntata, siccome appunto sono 27 cantanti in tutto perché sono tre ogni puntata, quindi 9, la Sonos Music Record e della Maffucci Music, appunto l'hai citata prima, darà la possibilità a un artista fra questi 27 di poter mettere una canzone o quella che presenteranno oppure una canzone inedita ancora diciamo così nel cassetto, in accordo ovviamente con la casa discografica, l'ascolteranno, dopodiché appunto la casa discografica darà la possibilità di mettere questa canzone in rotazione radiofonica in moltissime radio italiane, quindi una bella possibilità, una bella opportunità per chi vuole far conoscere la propria musica. E ovviamente oltre al vincitore, ma non è come dicevo una gara, oltre a questa possibilità c'è anche poi la vetrina dove uno si potrà mostrare su Radio Italia nei 60 TV, quindi già quello insomma è una bella cosa. Mirko, io ti ringrazio, chiaramente invito tutte e tutti a seguire e rimanere sintonizzate con il Salotto della Musica. Assolutamente, poi Adele permettimi solo una cosa, che chi vuole partecipare, abbiamo ancora qualche posto, lo può fare chiedendo informazioni, scrivendomi alla mail Mirko con la C, punto Realdini, @gmail.com. Perfetto. Allora ancora grazie Mirko e speriamo grazie di sentirci presto. Grazie a te Adele, ti aspettiamo tutti sabato 12 maggio, per tutti i sabati, alle ore 18. Su Radio Italia nei 60 TV, ripeto, canale 81 per Bologna e Emilia e 86 per la Romagna, poi dal prossimo sabato 81 per tutta la regione.